Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, come al solito, formazione al completo, quella del basket di Radio 24, per raccontarvi questa ottava giornata del campionato di Serie A. Ma intanto facciamo anche rombare i motori del Gran Premio degli Stati Uniti con rapidissimi aggiornamenti. Siamo al sedicesimo giro. Primo Vettel, secondo Hamilton, che sta proprio lì a meno di un secondo. La notizia è che pochi istanti fa è uscito fuori di pista, si è ritirato Webber, e quindi Alonso è terzo dopo una splendida partenza e un gioco di squadra che già vi abbiamo raccontato con Felipe Massa. Quindi insomma, gara davvero interessante, così come interessante è stata questa ottava giornata che intanto vede in campo Varese e Sassari con un 35-26 per i varesini, che stanno conducendo in quello che è il big match di giornata. Ma intanto le big vincono, perché Siena batte Caserta 86-66, Cantù passa Pesaro per 76-66, vince Roma a Venezia 75-67, 82-74 per Biella fuori casa sul campo d'Avellino, quindi vince anche Biella che aggancia il gruppo di coda. Reggio Emilia batte Bologna nel derby emiliano 77-68, Brindisi supera Montegranaro per 97-78. Adesso vi do anche la classifica, ma voglio andare subito a Siena da Massimo Sollazzini per la vittoria di Siena sulla Juve Caserta, perché Massimo so che è un ospite davvero importante. Sì, un ospite che pregusta qualche ora di riposo dopo un ciclo di giorni e partite molto importanti e prima di un altrettanto impegnativo ciclo. Coach Luca Panchi, buonasera, stasera con noi, una vittoria che insomma vi fa trattenere con tranquillità, un po' respiro, ma da martedì si ricomincia. Sì, era una partita difficile nell'interpretazione, perché veniva proprio in seguito a un ciclo di gare molto impegnative, soprattutto perché tutte e tre erano state giocate lontano da Siena. Siamo prossimi al grande impegno contro il Maccabi, cui vogliamo farci trovare pronti, però l'errore sarebbe stato quello di considerare la gara di stasera quasi scontata. Invece poi, come il campo ha dimostrato, Caserta è una squadra che nonostante le difficoltà gioca un basket efficace, con giocatori esperti, un allenatore molto preparato, e abbiamo avuto delle oggettive difficoltà a imprimere il nostro marchio difensivo alla gara, però la squadra poi è stata molto brava a interpretarla e nei secondi 20 minuti sicuramente abbiamo giocato con il piglio, l'aggressività che volevamo vedere fin dall'inizio. Tutto questo fa parte di un percorso ancora in fieri di costruzione della squadra, sia della organizzazione che della propria identità, quindi sono soddisfatto di questo momento e chiaramente speriamo di poter cavalcare l'onda, perché venerdì sera e poi lunedì a Cantù saranno sfide di alto livello. Ecco, coach Sacripanti della Juve Caserta ha detto, visto una squadra già trasformata, e però poco fa in sala stampa ha detto siamo già in grado di competere ma non siamo ancora ai livelli delle migliori. No, è il campo che lo dice, perché chi ci precede in classifica o chi, come nel caso di Milano, ha l'ambizione di dominare questa stagione è stato capace di batterci, quindi significa che ancora il nostro percorso ha bisogno di consolidarsi e soprattutto per acquisire quella continuità che ci possa permettere di quantificare i progressi che obiettivamente e oggettivamente stiamo facendo. Però ancora questa squadra, come è legittimo che sia, ha e mi auguro che abbia margini di miglioramento. Davanti Tel Aviv, poi Cantù e Malaga, qual è l'impegno più impegnativo in vista? Lo sono tutti allo stesso modo, quindi chiudiamo il cerchio, sono tre gare di Eurolega a tutti gli effetti, una addirittura in trasferta, quella di Cantù, due in casa, dobbiamo approcciarla allo stesso modo, giocare la nostra miglior pallacanestro, quello che sogno, quello che desidero è riuscire a centrare un'impresa, perché tale sarebbe. Al momento godiamo della fiducia e della consapevolezza che ci può legittimamente permettere di affrontare queste partite nel modo giusto, ma senza avere la presunzione che sia scontato farlo. Dario. Perfetto, perfetto. Grazie a Massimo Sollazzini e a Coach Banchi per questa analisi a tutto tondo della settimana e delle giornate decisive che aspettano Siena. Allora, dicevamo, chiaramente domani tocca a Milano, in trasferta a Cremona nel posticipo. Intanto, meno di un minuto alla fine all'intervallo lungo a Varese, con Varese avanti per 41-35 su Sassari. Classifica: Varese appunto a 14 punti, Sassari a 12, ma è destinata a cambiare il vertice della classifica. Cantù e Siena intanto si portano a 12 punti insieme ai sardi, 10 punti per Roma e Reggio Emilia, quota 8 Bologna e Brindisi, 6 punti per Venezia, Milano e Caserta, quota 4 Cremona, Montegranaro, Pesaro, Avellino e Biella, che aggancia, come dicevamo, il gruppone di coda. E allora adesso proprio ad Avellino, fra qualche istante andremo dal nostro Carmelo Presti Simone. Intanto vi do i risultati della Lega 2, che ha giocato la settima giornata: Trento Ferentino 87-81, Trieste Forlì 70-76, Iesi Capo d'Orlando 78-83, Verona Bologna 80-69, Barcellona Imola 91-84, Veroli Casale Monferrato 73-74. Beh, quest'anno le partite all'ultimo canestro Casale le vince, non come nella sfortunata annata scorsa nella massima serie. E poi Pistoia Scafati 88-86. Allora andiamo da Stefano Valenti, che ha visto per noi la sfida di Reggio Emilia, derby emiliano tra Reggio Emilia e Bologna. Hanno avuto la meglio i reggiani. Stefano, che sfida è stato questo derby al sapor di tortellino? Ciao, buonasera. Sì, ciao. Il derby Reggio Emilia l'ha vinto Reggio Emilia, che a questo punto ha operato anche il sorpasso in classifica. Il finale 76-68, ma Reggio la partita l'ha sempre avuta in mano, partita subito forte con un break che l'ha portata avanti di 10. Bologna ha messo il naso avanti appena un attimo nel terzo quarto, ma Reggio nel finale di frazione è riuscita a incidere di nuovo sul risultato finale con un break di 9-0 e poi non c'è stata più storia. Reggio bella, è una squadra che gioca con fiducia, quinta vittoria consecutiva, 20 punti di Taylor stasera, ma anche Cinciarini ha dato il suo contributo e soprattutto è stato importante l'inizio molto positivo di Jeremic. Bologna molto nervosa, nervi scoperti, e c'è stato un episodio proprio nell'ultimo minuto che ha inciso sul risultato, quando Steven Smith aveva i liberi del possibile meno 6 a 56 secondi dalla fine. È andato in lunetta dalla curva di Reggio, è piovuto un cartoncino, il giocatore americano ha avuto una reazione, ha scagliato violentemente il pallone contro i rotori di bordo campo, è stato richiamato. Non c'è stato verso di interrompere la polemica, gli arbitri hanno sanzionato il tecnico e lì praticamente si sono chiusi i giochi. Beh, speriamo poi che qualcuno prenda anche provvedimenti, anzi no, gli organi federali prendano provvedimenti in questi episodi, chiaramente non a giustificare la reazione del giocatore, ma immagino che un americano faccia ancora più fatica, no Stefano, ad abituarsi a questo andazzo che ogni tanto ricompare sui nostri parquet, per non parlare dei nostri stadi, eh? Guarda, sono d'accordo con te, non si può mai giustificare chi lancia oggetti in campo, indipendentemente se sia un foglio di carta o una moneta. È altrettanto vero che un giocatore navigato come Smith deve sapere che la reazione ovviamente non ci deve essere. Insomma, è americano ma ha giocato in Grecia a Panathinaikos, quindi di cose ne ha viste, altro che noi umani. Sì, è stato svezzato, ecco, diciamo, ecco, è stato svezzato. Senza dubbio, però ripeto, soprattutto quando al termine di una partita che la sua squadra ha giocato sicuramente male, senza continuità, eppure con quei liberi, 6 punti da recuperare potenzialmente, che potevano diventare 4 e 56 secondi da giocare, c'è ancora una partita da giocare. Questo un giocatore come Smith deve avercelo ben fisso in testa. Assolutamente. Intanto 7 secondi all'intervallo lungo a Varese, 43-37 tra Varese e Sassari. Piccolo aggiornamento anche sul Gran Premio degli Stati Uniti: pit stop non perfetto per Alonso, il primo, perché perdita di tempo a causa della gomma posteriore, la posteriore destra che non usciva dalla sua sede, così Alonso ha perso tempo al cambio gomme, gara che si complica per la rossa, così come è destinata a complicarsi anche quella di Varese, no Stefano? Perché 43-37, una Sassari che è sul campo più difficile della Serie A, di fronte alla capolista imbattuta, è veramente un osso duro, segno che il lavoro di Meo Sacchetti non è solo maquillage, ma ha radici profonde. Tutt'altro, lo ha testimoniato il campionato scorso, ovviamente anche quello precedente, e questa è solo la conferma e soprattutto della mentalità di una squadra che gioca in casa con la stessa testa che usa quando va in trasferta. Non c'è campo che conti, Sassari va per giocare la sua partita, che la vinca o che la perda, comunque l'idea c'è, e questo è molto bello, così come credo tutti stiano apprezzando il fatto che in questo momento a Masnago si stia giocando una partita tra la prima e la seconda in classifica, e sono due squadre molto piacevoli da vedere. Assolutamente d'accordo, grazie a Stefano Valenti. Voliamo subito ad Avellino. Avellino, Biella, vincono i piemontesi. Carmelo Prestisimone, buonasera. Sì, eccoci Dario, buonasera, bentrovati da Avellino. Biella che supera Avellino 82-74, conquista due punti d'oro per la salvezza. Una brutta partita da parte dei campani, che vengono battuti soprattutto all'asse Trey Johnson Brekins. Brekins 22 punti, 6 su 9 da 2, 3 su 3 da 3 punti, Trey Johnson 15 punti. Noi siamo con Gianluca De Gennaro, l'assistant coach di Gianluca Tucci, nuovo allenatore di Avellino. Allora Gianluca, una situazione difficile. Avellino è una partita a inizio stagione per arrivare a conquistare i playoff, adesso gli obiettivi sono cambiati, si punta alla salvezza. Com'è la situazione? Ma la situazione è sicuramente quella di cercare di modificare la squadra prima possibile, perché purtroppo ci stiamo accorgendo che abbiamo dei problemi strutturali. Però nonostante quello, stasera comunque i ragazzi hanno cercato di giocarsi la partita alla pari con Biella, che comunque è abituata a stare in questa parte bassa della classifica e quindi comunque ha un'energia un pochino più di noi. Noi dobbiamo solo stare tranquilli, lavorare forte, cercare di migliorarci, migliorare la chimica di squadra quanto prima è possibile. Ecco Gianluca, forse ad Avellino manca, anzi sicuramente ad Avellino manca una guida. Negli anni passati c'era Marcus Green, autentico leader di questa squadra. Adesso manca Hardy, non ha mai giocato, manca Warren infortunato, si punta a prendere un esterno, si parla di Brian Chase. Quali sono gli obiettivi adesso di Avellino anche in chiave mercato? Ma sicuramente quello di cercare un point guard da prima possibile. Brian Chase è uno dei tanti giocatori che abbiamo sotto controllo, e ci auguriamo che in settimana la società ci possa regalare questo giocatore. E in più, come hai detto tu, la situazione di Chris è da tenere sotto controllo, perché comunque un esterno in meno è pesa tanto, e da monitorare anche la situazione di Dragovic, che comunque in settimana non ha fatto allenamento per il problema che ha al polpaccio. Quindi comunque sai benissimo che abbiamo giocato un po' con i giocatori incerottati, speriamo ecco in settimana di poter lavorare con la squadra a completo o con dei giocatori nuovi. Bicchiere mezzo pieno anche per Avellino, però, che guarda con fiducia anche al ritorno di Lyndon Johnson, che ha realizzato 12 punti, 13 rimbalzi, un buon ritorno del lungo americano, insomma positivo la sua partita. Assolutamente sì, Lyndon è stato molto, molto bravo stasera a giocare sia per se stesso ma soprattutto anche di squadra, come ha fatto anche Ibi. Quindi speriamo che continui così e noi possiamo continuare a trovare questa prima vittoria che ci manca. Grazie a Gianluca De Gennaro. Dario, a te. Perfetto Carmelo Prestisimone, come sempre da Avellino. Allora adesso ci fermiamo per il traffico, poi aggiornamenti sui motori, Gran Premio degli Stati Uniti, ma soprattutto ancora tanto tanto basket insieme. Palla spicchi. Eccoci ancora insieme, ma anche con gli aggiornamenti dal Gran Premio degli Stati Uniti che avevamo promesso. Bene, Vettel sempre in testa, Massa al terzo posto, fatica e non poco invece Alonso, problemi di gomme per la Ferrari, attualmente sesto lo spagnolo, e qua marca male, perché se vince Vettel e Alonso in quel caso non arriva almeno quinto, il mondiale prende ancora una volta la strada della Red Bull. Beh, staremo a vedere, immagino che tanto spazio alla Formula 1 ma anche al basket domani alle 14 in tutti i convocati, vero Carlo Genta? Ben ritrovato Carlo. No, naturalmente, ciao Dario, buonasera a tutti. Scalderemo i motori, speriamo di non commentare un mondiale già finito, perché insomma sarebbe davvero un peccato. Intanto, per quanto riguarda la giornata di Serie A, direi che le big mostrano i muscoli, perché Cantù, Siena, Roma e Reggio Emilia vincono e allungano un po' la classifica, no Carlo? Sì, vero, Reggio Emilia non smette mai di sorprendere, cioè è una squadra vera, una squadra seria, è una squadra che gioca una grande pallacanestro. Adesso stavo vedendo Varese e Sassari, che sono in questo momento le due migliori interpreti della pallacanestro italiana, in attesa che le big risolvano molti dei loro problemi. Milano, Cantù, Siena, chi più chi meno di problemi se ne vedono. Quanto a qualità della pallacanestro, quelle che abbiamo citato sono quelle che giocano meglio, sono anche le più divertenti da vedere, sono squadre spensierate che giocano leggere e che riescono anche ad essere spettacolari e incisive sui due lati del campo. Dario, domani sera abbiamo un Cremona Milano che pesa parecchio sia per la classifica sia ancora una volta per l'Olimpia, reduce da una ulteriore sconfitta in Eurolega. Ecco, questo derby lombardo cosa può aggiungere al campionato, o togliere, perché potrebbe togliere pure un allenatore? Ma io ci credo a questa storia, ci credo poco. Ricordo una sconfitta di Milano pesante a Cremona l'ultima volta. È banale dire che Milano deve vincere, che Milano deve dare un segnale, non tanto per la classifica quanto per se stessa, per la società, per i tifosi, per tutta l'organizzazione, perché è una squadra ancora troppo in costruzione per essere vera. L'ho vista l'altra sera in Eurolega su un campo, per la verità, quasi impossibile, su un campo su cui non ha mai vinto, contro una grande d'Europa. Ci ha provato, però manca sempre qualcosa, manca sempre, e continuiamo ad insistere, la leadership offensiva. Si è fatto male Gentile, questa è sfiga. Però viene tutto in questo momento. Per Milano un novembre difficilissimo, così come era stato molto difficile il novembre dell'anno scorso, probabilmente già fuori dall'Eurolega, in classifica certamente potrà risalire, però non dimentichiamo che quest'anno l'obiettivo è vincere qualcosa, e mi sembra che la distanza sia tantissima, non solo da Siena, che pure ha battuto, ma anche da molte altre squadre in questo momento. Assolutamente, lavori in corso. Intanto chi ha cominciato bene il proprio lavoro è Gianmarco Pozzecco, debutto da allenatore e prima vittoria in stagione per l'Orlandina Basket. Beh, Flavio Tranquillo, è vero che abbiamo visto, ci aspettiamo sempre di qualsiasi sorpresa sui nostri parquet, ma addirittura Pozzetto coach magari a predicare ritmi bassi e giochi ai 24 secondi, questa proprio no. Ciao Flavio. Sicuramente fa abbastanza sorridere, ma non prenderei Gianmarco Pozzecco per il personaggio, ma per la persona, che è la persona, ha passione vera per la pallacanestro, ha conoscenza vera della pallacanestro e capisce bene che cosa fa vincere e che cosa fa meno vincere a pallacanestro. Quindi secondo me il problema per allenare non è certo ovviamente la comprensione del gioco, può essere un po' il quotidiano, perché la professione di allenatore è meno scintillante nel quotidiano di quello che sembra. Ci vuole resistenza fisica, ci vuole resistenza mentale, ma se ne facciamo una questione di comprendonio, qui siamo ad altissimi livelli. Altissimi livelli anche quelli che stanno toccando Vitucci e Sacchetti in questo scorcio di campionato, ma direi nella loro carriera, per quello che hanno fatto nelle diverse piazze dove si sono trovati. Ecco, è questa partita la fotografia del livello della nostra Serie A, oppure Varese e Sassari rischiano di abituarci troppo bene, Flavio? Ma secondo me la fotografia del livello della Serie A è un livello non da buttare, però è un livello che non ha niente a che fare con, ovviamente, con l'alto livello europeo, ma anche con le punte della nostra Serie A fino a 3 o 4 anni fa. È un livello diverso, è un livello più basso, però è un livello in cui non scarseggia l'intensità, in cui si gioca in una maniera diversa, intanto nella distribuzione dello sforzo giocano tanti giocatori per non così tanti minuti continuativamente, le responsabilità sono molto distribuite, poi singolarmente, ripeto, il livello è chiaramente e ovviamente più basso. Allora, intanto finito il primo tempo, come già vi abbiamo detto, 45-37 per Varese su Sassari, che sembra allungare. Grazie a Flavio Tranquillo e a Carlo Genta, che ritroviamo domani con tutti convocati alle 14, 20 secondi per gli aggiornamenti della Formula 1, metà gara intorno al 30° giro, Hamilton e Vettel continuano a fare tempi record in avanti, mentre Alonso sembra recuperare almeno per tenere a distanza gli inseguitori. Chiaramente vi continuiamo a raccontare tutto nelle edizioni serali di GR 24 e poi nei tempi supplementari da Tempo di Sport alle 22:45. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Giorgio De Luca in redazione.